E poi abbiamo anche la presidentessa, mi sbaglio? No, no, mi sbaglio. La segretaria. Una semplice segretaria. Io sono la tesoriera. Che qui niente possiamo, è semplice. Possiamo sapere anche il tuo nome. Segretaria Marzia Zonarelli. Marzia Zonarelli, fantastico. Grazie e per essere. Salutiamo da a casa la nostra Miss President. Miss President. Stefania Corsi. Stefania Corsi, ciao Stefania, ti salutiamo da casa. Come sarebbe stato bello poter dire Miss President? E invece magari. Niente, neanche gli Stati Uniti riusciranno mai ad avere una donna presidentessa, almeno questo è quanto io presumo. Poi magari mi sbaglio, chi lo sa. Dicevamo, siamo al 42esimo anno di Radio Città Fujiko, che non sembra una cosa da niente, ma invece non lo è, per cui stiamo praticamente inaugurando due giorni prima di tutti gli altri, tanto per cambiare, visto che noi siamo molto coccici, il nuovo palinsesto di Radio Città Fujiko. E subito ne approfitto per dirvi che dalla settimana prossima Coxo Spaziale sarà un'ora prima, ovvero stiamo con il fuso orario, passiamo alle 8 di sera anziché alle 9. Questo è positivo per noi, perché così possiamo andare dopo a cena, a bere, siamo contenti. A voi non vi cambia niente, perché tanto ci ascoltate in macchina, oppure ci ascoltate a casa, oppure non ci ascoltate per niente. Dicevamo, robe da matti, raccontami tutto, Letizia, a meno che la Marghe non abbia qualcos'altro da raccontarci. Allora, robe da matti, io farei parlare Licia del perché questo nome, che in realtà è stato scelto, voluto da lei. Da me? No. L'ha tirato fuori la presidentessa Stefania Corsi ed è stata accolta dall'entusiasmo di tutte, perché ci sembra molto rappresentativo di cosa è importante fare passare alla popolazione in una manifestazione, appunto, che consta di 54 conferenze, quindi raggiungerà molte persone, ed è che tutt'oggi, nel 2017, esiste un pregiudizio sul fatto di rivolgersi a un professionista della salute mentale. Sono d'accordissimo. Mentre invece non c'è altrettanta difficoltà ad andare dal medico per un disturbo organico, a consigliarlo agli amici se ti ha fatto un buon intervento il chirurgo, e invece si va dallo psicologo, si tiene ancora un po' nascosto per questo pregiudizio, appunto, che chi va dallo psicologo deve essere matto. E infatti il sottotitolo poi di questa manifestazione, per mitigare il messaggio forte di robe da matti, è psicologia per tutti. Come dire che in un'epoca in cui ci sono cambiamenti sempre più rapidi, la società pretende molto dalle persone, le giudica in base alla loro efficienza, siamo tutti posti sotto un grande stress che non può che aumentare i problemi psicologici, e per cui magari ne abbiamo bisogno tanto quanto il medico. E altro aspetto da evidenziare da questo titolo è che molto spesso le persone che sentono, provano, compiono azioni che non riconoscono come normali, si sentono, si chiedono: sarò mica matto? Tipo me. Esatto. No, c'è questa frase di Dalí fantastica che dice che l'unica differenza tra me e un matto è che io non sono matto. No? Non è male. Non so se l'avevi mai sentita. Non ancora. Ok. Grazie. Prego. E quindi queste conferenze possono anche avere lo scopo, questa manifestazione nel suo complesso, di spiegare quali sono i meccanismi che possono apparire non normali, ma che in realtà sono comuni a molte persone, e quindi far sì che la persona si senta più normale. D'altronde la diatriba cosa è normale e cosa è patologico, la domanda è di fondo, annosa, esatto, nessuno ti sa è rispondere. Sono normali le persone che fanno cose normali, però cosa è normale? Ecco, e noi possiamo spiegare che quella cosa lì non succede solo a te, che quella difficoltà lì non succede solo a te, che puoi essere incoerente come lo sono altre persone, e che tutti questi sono meccanismi normali. Quindi questo nell'ottica appunto di una di quella che è la comunicazione, no? E la cultura del benessere psicologico, e la sensibilizzazione anche alla prevenzione del disagio. Perché c'è una, invece una bella frase che dice che le persone comunque normali o nevrotiche vivono un po' nei sogni, le persone più gravi nelle nuvole, le persone più gravi abitano nelle nuvole e lo psicologo, lo psicoterapeuta riscuote l'affitto. non male questo. Bene. Un'osservazione che mi viene fatta spesso rispetto alle persone che chiedono un aiuto è: ma sono persone deboli. In realtà quello che io penso è che avere la consapevolezza di avere bisogno di aiuto è una grande forza. Il coraggio è veramente quello di poter riconoscere la propria vulnerabilità e di avere bisogno di aiuto, e in conseguenza a questo sono deboli, quindi torneranno sempre, avranno sempre bisogno di aiuto. Ma uno degli scopi dell'aiuto psicologico è quello di attivare la possibilità dell'autosostegno, quindi non è che noi interveniamo nelle vite delle altre persone e loro avranno sempre bisogno di noi, perché il senso è quello di attivare il loro autosostegno. I'll take a smile. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'll take a hug. Give you showing love. Yeah, yeah. Even if you had a bad day, I'll take a great smile. Just give it to me. Can I get a hand clap, toe tap, something from you? Let me get them arches in your back. See how your shoulders don't move. Cause our dreams are bigger than the limits in the sky. We cancel them flights because we fly and got the blues no more. If your feet still hurt, look at the shoes you wore. I bet you're looking for a break, but that's what rules are for. So give me your time, it's been a minute. We've been waiting for you to come through, look in the end, and we be in it. Can I get a hand clap, toe tap, something from you? Let me get them arches in your back. See how your shoulders don't move. Questa è la fantastica Tamara Bubble, che continua a mandarci dei gran pezzi, e allora io cosa faccio? Li metto su, cosa devo fare? Sto ascoltando Corso Spaziale. E chi è quella? Margherita. Si chiama Margherita anche lei, come tua sorella. Allora, dicevamo, no, devo leggere questa cosa perché merita. La luna è calante in Vergine dalle ore 1 di mercoledì 20 settembre, ma calerà per poco, 9 luglio alle ore 7, poi crescerà nel segno fino alle ore 14 di sabato 23, ovvero solstizio d'autunno alle ore 22.02 di venerdì 22, che è oggi, e due minuti dopo che finisca Coxo spaziale avremo il solstizio d'autunno. Lo sapevate voi questa cosa? No. Vedi? E io l'ho imparato da Monica P. Brain Quoghi, che la salutiamo, non credo che ci stia ascoltando, ma non si sa mai. Comunque le vogliamo molto bene, perché lei pubblica sul suo Facebook sempre le fasi della luna, con anche dei consigli sul da farsi. Per cui, visto che la luna, abbiamo detto che cresce nel segno fino alle ore 14 di domani, lei dice: fare fuoco e bruciarvi ogni rancore, ogni pignoleria, malattia e paranoia, ardere di pace, lungimiranza, precisione e amore. Naturalmente la canzone è in sottofondo, sono i Ramones, che non c'entrano niente. Dicevamo, poi la Vergine porta a fare lavori con grande stile, eleganza, ordine, precisione e intelligenza. Lavorare la terra, concimare, trapiantare le piante, potare, riordinare il giardino e l'orto, organizzare i prossimi lavori, costruire, comprare abiti, sfoggiare, permanente ai capelli e tinture. Infatti domani o dopodomani andrò a tingermi i capelli, perché ormai sono tutti bianchi. Mi guardano male. Durante il 9 luglio, incantesimi per trovare lavoro, magie di protezione, crescita, bellezza per le piante, il giardino, l'orto e gli animaletti, diete dimagranti. Basta. Questo è, anzi, ci starebbe uno stacchetto, soltanto che non ce l'ho in questo momento. Dicevamo, è molto interessante quello che raccontate, e la domanda, uno dei pregiudizi che secondo me la psicologia e la psicanalisi eccetera è quello di essere una sorta di passatempo per ricchi, no? Cosa, ovvero di essere irraggiungibile per i ceti medi e poveri, ovvero vado allo psicologo solo chi se lo può permettere. Cosa, come mi rispondete? Perché io mi sembra di capire che quello che voi state facendo è esattamente andiamo a, diciamo, incontro alla popolazione, innanzitutto nella nostra attività, nella nostra manifestazione è previsto, per chi ne fa richiesta, un colloquio gratuito, diciamo che può essere un colloquio di consulenza oppure un colloquio per avere informazioni corrette circa la psicologia, il lavoro dello psicologo eccetera, quindi quello che può essere la tariffa, l'onorario di uno psicologo, uno psicoterapeuta, non è poi da ricchi. C'è chi applica un tariffario anche calmierato a seconda appunto di quelle che sono le possibilità economiche della persona. Ci sono associazioni che vanno incontro a queste, cioè siamo molto lontani, no, dai tempi, certo. Appunto sono cambiati i tempi, non è più così, giusto? I tempi di sto con le mani in mano tutto il giorno, per cui ho il tempo per crearmi dei problemi, esatto. Se no non ce li avrei. Benissimo, e dunque e invece appunto fondamentalmente tutti questi eventi, perché quanti sono? Sono tantissimi. Comincia 54, comincia il 2 ottobre, vi abbiamo incontrati questa settimana perché la settimana prossima Coxo Spaziale riproporrà la prima puntata del nostro programma, perché ahimè sia io che Fedra non siamo in città, e così faremo questa simpatica replica, ma appunto comincia il 2 ottobre e finisce il 31 ottobre, un mese intensissimo pieno di eventi. Quali saranno gli highlight di questi eventi? Naturalmente ce n'è veramente per ognuno. Allora, se voi ascoltatori, diciamo, visionate il nostro sito, che è www.psicosfere.it, troverete delle specie di etichette carte in cui ci sono praticamente raggruppate le tematiche principali di ogni evento. Diciamo che gli eventi spaziano veramente di tutto quello che è lo scibile psicologico. Principalmente si parla di diciamo tecniche, tematiche psicologiche, relazioni umane, interventi psicologici, e poi si analizza invece più approfonditamente quella che può essere una problematica delle varie caratteristiche. Quindi è difficile poi fare una lista di tutte queste, però la classificazione, se vogliamo farla, è su queste quattro cose, prendendo questi quattro punti di riferimento. Però diciamo si lavora sulla partire dalla coppia, dai cicli della vita, dal benessere, dalla problematica, dal disturbo, proprio dal tipo di intervento psicologico, psicoterapico, eccetera. Quindi, se mi permetti una parentesi, questo si lega anche alla domanda che hai fatto prima sui costi, nel senso che in questa panoramica di tipologie di interventi ce ne sono di brevi, di lunghi, di approfonditi in un certo verso, mirati sul presente, mirati sul passato, ce n'è per tutti i gusti, anche per tutte le tasche, perché si può scegliere un intervento che, vabbè, a parte il costo da affrontare, la persona riesce a valutare, a essere più nelle sue corde, e visto che l'aspettativa fa un 70% della riuscita dell'intervento, allora direi che è molto importante che le persone abbiano la possibilità di vedere operare nel corso della conferenza, ma anche del colloquio gratuito, il professionista prescelto, per vedere se effettivamente può essere la persona in grado di aiutarle qualora ne avessero bisogno. Io direi che il percorso psicologico è un investimento che può permettere un risparmio successivo, e anche con un valore a lunga durata, perché vero, quando ci sono dei malesseri dell'animo, dei malesseri interiori che perdurano, rischiano di cronicizzarsi, e può succedere che questo diventa malattia nel corpo. Quindi è importante valutare anche dove spendo i miei soldi e se può valere la pena affrontare un percorso e pensare che questo si trasforma in salute anche a lunga scadenza. E quando il malessere è di natura politica, cosa possiamo fare noi? Quali sono le soluzioni a un malessere di natura politica, che penso che, ahimè, colga più o meno, politica ci dà da vivere delle emozioni molto forti, e le emozioni sono un argomento della psicologia, e anche quelle si possono imparare a gestire. Dire, stante una realtà di fatto che è così, e il sentimento di impotenza è fortissimo nei confronti di certe situazioni politiche, è anche vero che come me lo gestisco, come me lo vivo, come lo comprendo, cambia la qualità del mio quotidiano. Ho capito. 100 ne pensi, 0 ne fai. Questo dovevo venire a vederlo l'anno scorso, dubbio, incertezza, delega. Adesso l'ho allontanato, così proprio non verrai a vederlo. No, invece adesso devo guardare che giorno della settimana è, ma assolutamente devo. Quello è uno che di quelli che mi tocca più da vicino, anche se lo fai a Molinella, cavoli. Però ho amici a Molinella, per cui sicuramente posso mandare la mia amica Anna Callegari in avanscoperta, che fra l'altro era anche una DJ pure lei. Ho capito. E dunque, ma ce n'è veramente per tutti i gusti, ce n'è uno che parla di sport, mi sbaglio, sto invecchiando, sono vecchio, anche questo devo dire che mi tocca un attimo, perché sai com'è, che tutti gli anni non si ringiovanisce mai. Per cui in fondo è sempre colpa nostra, cioè qualunque problema ci sia, in realtà è sempre un problema che dobbiamo risolvere noi, o sbaglio? Io non parlerei di colpa, assolutamente. Ok, parlerei di complessità della vita. Certo. La vita è complessa e possiamo sicuramente imparare a conoscerla meglio. Conoscere ci dà la possibilità anche di trovare strategie diverse per problemi che sembrano irrisolvibili. Sì, è molto brutto dire colpa. Al limite responsabilità, perché la colpa presuppone che tu fai male intenzionalmente a te, a un altro. La responsabilità è qualcosa di, diciamo, molto spesso possiamo avere dei comportamenti che ci portano un po' fuori strada, eccetera, ma c'è soltanto una questione di responsabilità, non di colpa. Per cui la responsabilità è nostra, ma la colpa è di Cerati, come al solito. La colpa è di Cerati. Sì. Adesso nessuno sa di che cosa stiamo parlando, ma non importa. Scusa, ti ho interrotto malamente, e anche perché fra l'altro ti devo interrompere malamente, perché tocca la colpa, malgrado sia di Cerati, la responsabilità è di Lolli, per cui è ora di sentire i 2 minuti di Lolli, dopodiché ci saranno il nostro piccolo stacco pubblicitario e poi andiamo avanti. I minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. To learn in minutes. Buongiorno, ed ora mi accanisco. Le faccio vedere le slide. Le faccio vedere le slide. Buongiorno, ed ora mi accanisco. Le faccio vedere le slide. E non mi perdonerà mai. Le faccio vedere le slide. Come in arancia meccanica, come una setta satanica, lei pianga calde lacrime, le conserverò in una tanica, non si asciughi con la manica. Buongiorno, le faccio vedere cosa c'è sotto un uomo donnato, un vitello pollato. Buongiorno, un gatto accanito, un gatto caldo, un cane bagnato. Se corro più forte del cane infrangerò il muro del cane, io corro più forte, se piove terrò le mani in tasca. Sul bordo della vasca la capra casca, la capra casca. Pronto? Pronto? Le nostre cose sono case, sai. Le nostre case sono chiuse, sai, le nostre case chiudono alle 6. Le nostre chiese cosa sono, sai? Pronto? Pronto? Su Zara una nutria ogni 5 abitanti, e a finire minati, oltre ai canali, sono le coltivazioni agricole. Una soluzione di contenimento di questi animali alloctoni è proposta da Carlo Bosi, contitolare col fratello Alberto di un'azienda agricola dove si allevano 70 manze da latte e si coltivano foraggi e cereali su 40 ettari di terreno a Suzzara, 188 More Worlds. Sei. Già finito? A Granarolo dell'Emilia il teatro ha messo la sua firma. Tag in via. Sono Margherita Pepe e sto ascoltando Coxo Spaziale. Ed eccoci qua. Siamo tornati, molto bene, ed è già arrivato questo fatidico momento. L'angolo della menzione. Olè, l'angolo della menzione, e la prima ce la legge Maria Letizia. Allora, da oggi fino al 12 novembre il metodo Simoncini ricerca di un'estetica dell'insieme a cura di Elisabetta Rebellato e Antonio Cavedoni. È una mostra dedicata a Francesco Simoncini, grande innovatore nel campo del design di carattere tipografici, creatore di celebri font che sono passati sotto gli occhi di milioni di lettori per oltre 40 anni e sono tuttora apprezzati in tutto il mondo. Dal Garamondo Simoncini, utilizzato dalle Einaudi e divenuto un carattere iconico nell'editoria italiana Aldelia, progettato per gli elenchi telefonici. Il progetto ideato e prodotto da Griffo. La grande festa delle lettere e tutte le info sono su www.griffoanniversari.com. Museo del Patrimonio Industriale, Fornace Gallotti, Via della Beverara 123, 40131 Bologna. Sì. sei veramente una signorina, buonasera, devo dire. Grazie. Veramente fantastica. No, mi dispiace che inaugurava oggi questa mostra e non sono riuscito ad andarci, perché io, insegnando tecniche grafiche speciali, in realtà sarei stato obbligato ad andarci. Invece ieri sono riuscito ad andare a vedere che ha inaugurato ieri, appunto, ed è su fino al 21 gennaio 2018, Nel segno di Manara, antologica di Milo Manara, a cura di Claudio Curcio, nella nuova sede espositiva al Palazzo Pallavicini in via San Felice 24, ha inaugurato ieri un'esposizione tra le più importanti mai realizzate sulla vasta e celebre produzione artistica del mitico fumettista Milo Manara. L'evento anima alcune delle sale dello storico palazzo, un tempo sede di fasto e corte di importanti personaggi storici, fino al 21 gennaio 2018, e rende omaggio all'artista con un percorso espositivo di ben circa 130 opere. Tutte le informazioni le trovate su www.palazzopallavicini.com, e anche, naturalmente, così come tutte le informazioni riguardo a Psicosfere e a Robe da Matti, le trovate sempre, come al solito, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Io sono andato, appunto, alla conferenza stampa e ho chiesto e ho fatto una piccola domanda che in realtà era da quando ero adolescente che avrei voluto chiedere a Milo questa cosa, e per cui l'ho registrata e ve la faccio ascoltare. No, volevo chiederti il tuo rapporto con l'anatomia, perché secondo me tu sei il più grande conoscitore dell'anatomia umana che abbiamo vivente in questo momento, e mi chiedo che tipo di fatica è stata quella di arrivare a questi risultati, e anche se, mi chiedo se la fotografia aiuta il tuo processo o meno. Allora, all'epoca diciamo tutti che facevamo anche l'anatomia di... Sì. Ho studiato, e poi conta molto l'osservazione, ma l'osservazione è amorevole, diciamo, cioè l'adorazione nei confronti della meraviglia, sia del corpo ma anche in generale di tutto il resto. La fotografia certamente aiuta molto, ma nel senso che aiuta molto tutte le occasioni. Per esempio, nel manifesto di questa volta dove ci sono dei ritrattini, è chiaro che essendo appunto persona che non ci sono più, non ho potuto andare di persona a ritrarli, mi sono avvalso ovviamente di fotografie, così come se io dovessi raccontare un western ambientato nella Monumental Valley in Arizona, non è che ogni volta puntare in Arizona voglia le montagne, insomma guardo e vedo le fotografie. Quindi certamente la fotografia aiuta, ma il pericolo grande è di diventarne schiavi, cioè di dipendere poi dalla fotografia. Quindi la fotografia deve essere reinterpretata, reinventata, e soprattutto bisogna essere comunque in grado di disegnare anche senza la fotografia, perché specialmente nel fumetto ci sono infinità di posizioni di personaggio che io non è che ogni volta possa avere una fotografia di riferimento, oppure possa fotografarmi una modella, un modello, ci sono anche quelli che fanno così, intendiamoci. Ma io no, anche perché preferisco che il disegno conservi la sua caratteristica, che è questa specie di magia, diciamo, di questo rapporto che si stabilisce con il lettore, la complicità che c'è da parte del lettore, che deve far finta di credere che quel certo segno sia un naso. Deve far finta perché non è un naso, c'è quel famoso quadro di René Magritte che dice questa non è una pipa, e rappresenta una pipa, dice come non è una pipa, si prova a fumarla, si dice lui vedrai che non è una pipa, è un quadro che rappresenta una pipa, è la rappresentazione di una pipa, ma la tua complicità di spettatore è quella di credere, cioè di far finta di credere che quello sia un personaggio, quello sia un orecchio, un naso, una figura. Quindi è cosa che invece non succede con la fotografia. Con la fotografia c'è una identificazione pressoché diretta. Fra l'altro durante questa intervista sono riuscito anche a filmare lui che racconta un po' di storielle riguardanti Fellini, e spero di riuscire a caricarlo, e naturalmente se ci riesco le troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Dulcis in fundo, domani sabato dalle ore 18 in poi, grande serata di inaugurazione di tutte le gallerie d'arte contemporanea in zona Mambo, con Galleria Più che inaugura con Submarine Society con Han Hirsch, www.galleriapiu.com, galleria con 3 L, per cui non vi potete sbagliare. Dopodiché abbiamo la P420 che inaugura la mostra Antifona di Milan Greiger, non lo so, www.p420.it. Poi abbiamo Car DRDE, non so mai come si pronuncia, forse Car DRD, con Angela Gatti, You Touched Me, www.cardrd.com. E poi per finire abbiamo Locale 2, tutti lì attorno, tutti in zona appunto Mambo, tra Via del Porto, via... non mi ricordo più, Viazzo, Gardino, eccetera. Abbiamo a Locale 2 abbiamo una mostra curata da Claudia Gangemi, La lunga strada di sabbia, e il sito è www.locale2.it. E molto bene, abbiamo finito le nostre menzioni per oggi, siamo contenti, anche se in realtà mi sono ricordato che mercoledì prossimo c'è qualcosa, ma non mi ricordo più che cosa. Detto questo, torniamo a bomba, a pensare invece ad ottobre, robe da matti. Cos'altro mi raccontate, care belle signore? Un'informazione d'obbligo. Ah, ecco, esatto. Noi ringraziamo i comuni di Bologna, Casalecchio, Castel San Pietro, Molinella, San Giovanni in Persiceto, Castelmaggiore, San Lazzaro, perché ci hanno ospitato nelle loro sedi, ci hanno concesso il patrocinio. Perfetto. E un'altra informazione invece, per usufruire delle informazioni trovate sul nostro sito, ci sono, oltre all'elenco di tutti gli eventi con una breve descrizione per capire meglio di cosa si tratta e le modalità, se è richiesta la prenotazione per prenotare presso il professionista relatore della conferenza, ci sono anche tutte le schede professionali per conoscerci meglio e quindi eventualmente sceglierci per un eventuale colloquio. Con anche le foto? Sì, qualcuno ha messo le foto, qualcuno ha messo le foto delle vacanze. No, perché effettivamente non lo so, io adesso conosco voi, io non sono mai stato dallo psicologo, dallo psichiatra, ammetto questa mia debolezza, devo dire, perché probabilmente ne avevo bisogno da ben molto tempo, però effettivamente comunque c'è un po' di soggezione nell'avvicinarvi, cioè non è tanto semplice quanto andare magari al pronto soccorso se ti tagli una mano. A questo servono le conferenze, proprio per vedere se ti mangiamo oppure no. Oppure no. Ma come, cioè, so che adesso questa è nuova, questa è una cosa nuova che state facendo, però so che in passato vi ho avuto ospiti e avete fatto conferenze simili con altre varie associazioni. Quello che mi chiedo è il risultato. Come vanno le cose? Quando, cioè, sentite un ritorno da parte del pubblico che poi vi avvicina con meno paura? La gente è molto interessata, infatti partecipano sempre molto numerosi e oramai sanno che maggio e ottobre sono i mesi nei quali possono godere delle conferenze di psicologia, possono venire ad ascoltare, possono farsi un'idea e rimanere in un totale anonimato. Poi se trovano qualche cosa che li tocca e li stimola a cercare un percorso più approfondito, poi sanno quali strade percorrere. Però è molto importante che loro possano sedersi in mezzo a tante altre persone nell'anonimato, senza farsi riconoscere, certo, e ricevere delle informazioni che trovano significative per la loro vita, e anche molto spesso riconoscersi o sentire detto metti in parole delle cose che hanno dentro e che non sono facilmente condivisibili con altri. Una delle sofferenze più grandi che mi capita di riscontrare è proprio la mancanza della possibilità di condividere dei contenuti interiori, profondi, emozionali con altre persone che sono della famiglia o che sono gli amici. È una grande solitudine e avere la possibilità di vedere che ci sono tante persone interessate o di poter trovare un posto dove aprire il proprio mondo interiore è per qualcuno è estremamente prezioso. In questo senso io mi sento di dire che siete vicini ai filosofi. Per esempio io alle volte, appunto, sentendo, che ne so, una lezione di filosofia eccetera, alle volte ho queste illuminazioni dove penso che semplicemente sono ragionamenti a cui io sono molto vicino, ma che il mio cervello non è ancora arrivato a capire precisamente, per cui magari un filosofo invece che fa questo di mestiere riesce a mettere sul tavolo le cose esattamente come stanno. Penso che probabilmente avrò un'esperienza simile venendo alle vostre lezioni. Però devi anche metterti in contatto non soltanto con la mente, con i pensieri, ma col tuo cuore, con la pancia. È diverso dalla filosofia questo. Assolutamente, infatti l'ho letto l'altro giorno, non mi ricordo chi era, che diceva io riesco a pensare con la pancia, cioè io non penso solo col cervello ma penso anche con la pancia, e sono convinto che questo credo che fosse appunto una lezione o un professore che raccontava agli studenti, diceva io penso anche con la pancia e vedrai che lo fai anche tu. Ma la pancia è un cervello, esatto. È secondo il cervello di neuroni, tra l'altro, neuroni appunto, che hanno le stesse caratteristiche dei neuroni cerebrali. Adesso vi interrompo per mettere un piccolo stacchetto di musica, ma questa cosa mi interessa molto e andiamo immediatamente avanti. Those street lights are changing as new waves of sorrow enter the night. And concrete walls can sing all of the times we raged in fright. Can you face the facts or are you ignoring what we've become? And I'll walk in silence until I have found what needs to be done. But I don't wanna break your heart. It's hard enough that we're apart. And all I can say is your name. The freshest forgetting me. Told her goodbye because this ride could get dirty. Yeah, I couldn't lie. I keep my message like third degree. Burn you inside and wanna fire my lady. Yeah. Wait till I'm 88, then I'll have the key. Thinking back on my shorty and realize it's for me. I leave the date, then I radiate, I'm young and I'm free. Thinking back, can't be sorry, I love you best when I leave. Oh, boo. Un attimo di pausa perché ero andato dalle nostre psicologhe a confabulare di cose interessantissime, per cui secondo me in realtà possiamo assolutamente continuare in diretta e appunto stavamo parlando del, no, dove eravamo arrivati? Abbiamo parlato un sacco in questa, durante questa bella canzone, del ragionare con la pancia, del ragionare, è vero, eravamo rimasti ascoltare a ragionare con la pancia, dell'ascoltare con la pancia. Oddio, questa non ci interessa, è partita un'altra canzone a caso perché il nostro fantastico mixer degli anni 70, del resto voglio dire, la città Fujiko compie 42 anni che non sono bruscolini, e il suo mixer penso che se non ne ha 38 ci manca poco. Comunque dicevamo ragionare con la pancia e pensavo anche appunto al rapporto tra la psicologia, la filosofia, l'arte eccetera, e appunto vi ho definito una scienza umanistica, no? E, però effettivamente voi siete anche no, una scienza. Siete una, sì, appunto. Io avevo definito una disciplina umanistica, però in realtà siete anche una, cioè siete una disciplina scientifica, giusto? Dipende dall'approccio, dipende dalla, diciamo, di quella che è, esiste anche il punto di vista della psicologia cognitiva, tutti gli studi che riguardano le neuroscienze, lo studio per esempio dei neuroni a specchio che hanno veramente influenzano la nostra attività sociale, quindi studi che hanno, diciamo, si sono diffusi molto anche nell'ambito psicanalitico, che forse di umanistico ha tantissimo, quindi adesso la psicologia è molto vicina alla scienza in realtà. Certo. È molto lontana all'arte, no? No, assolutamente. Assolutamente. No, io naturalmente appunto ci sono tante belle collaborazioni fra psicologi, psicoterapeuti, artisti. Infatti adesso molto più in Inghilterra che non qui, però l'arte terapia è in Inghilterra va tantissimo, qui in Italia un po' meno, anche se ho conoscenti che si occupano di arte terapia, ma per adesso io penso che siano tanti quelli che si occupano di arte terapia, siano più del mondo dell'arte che non del mondo della psicologia, forse mi sbaglio, ma io sto parlando io un po' in realtà casaccio, direi che gli junghiani, no? Che invece in realtà che non sono magari arte terapeuti, studiano molto l'influenza dell'arte e diciamo sul comportamento, sulle relazioni, ad esempio quello, vabbè, non dovrei citare la mia conferenza, sulla psicologia del colore. Ah, ecco, vedi. Parto un po' dal lavoro di Claudio Widman, che è un uno psicoanalista junghiano, è proprio sui colori come influenzano non soltanto la nostra vita quotidiana, le attività, ma possono avere proprio una relazione a determinati colori, sono legate a determinati significati secondo alcune tecniche, alcune tecniche e alcune teorie psicologiche, come quella junghiana e quella della psicologia regolativa di Luscher. Quindi io parlerò proprio di questo. Con anche utilizzando sia non soltanto l'immagine ma anche il suono, quindi secondo utilizzando la sinestesia, quindi tra suono e immagine, il colore associato al suono. Io più ti ascolto e più mi sento ignorante, naturalmente. ma non penso che tu sia ignorante. No, fra l'altro devi venire a Molinella sempre. Devi venire sempre a Molinella, tutto a Molinella, fantastico. Utilizzando. Molto bene, si va a Molinella, si se può invece fare. Ti interessa di più il filone delle neuroscienze, c'è anche come usare il cervello del cuore, non solo l'intestino è un secondo cervello ma anche il cuore. Ho capito. Quindi. Questo può, inviterò il mio amico Lorenzo Sarno a venire con me a sentire questa del cervello del cuore, perché penso che gli potrebbe fare molto bene. No, dicevo che ho avuto modo di avere tra le mani il librone rosso di Jung. Tu l'hai mai visto? È fantastico. L'ho letto, cioè, sì. Voi lo avete dovuto studiare, perché quella è un'opera d'arte. Infatti è stata esposta, io l'avevo vista per la prima volta proprio alla GAM di Torino, se non sbaglio, che era esposta in una mostra, e dopo ho visto che in realtà è comprabile, cioè costa un botto, perché sì, è tipo 50 x 70 x 10 cm di spessore, tutto su carta, super pergamena eccetera. Però un amico ce l'avevo in casa e me lo sono sfogliato, tipo sarò stato 40 minuti a sfogliarmi questa cosa meravigliosa. Ma che cos'è quel libro rosso lì, fra l'altro? Io non ho neanche capito che cosa fosse, ma è veramente un mondo a sé tutta questa cosa. Mi ha sorpreso, perché io fra l'altro non sapevo assolutamente nulla di Jung, appunto perché non ho mai studiato, volevo studiare filosofia ma non l'ho fatto. C'è tutta un'influenza con l'arte, con l'alchimia, gli archetipi, il libro rosso, proprio la semplificazione e la rappresentazione di tutto questo. Fantastico. È da leggere perché torniamo a noi, poveri che non siamo perché Jung, perché poi tra l'altro non parliamo sì tanto. No, appunto, sì. Scusatemi, sì. Ma io, a me piace divagare, del resto se c'era anche Fedor sarebbe stato un disastro. Perché bene, no, torniamo a voi, appunto, che cos'altro mi dovete segnalare di tutte queste fantastiche serate. Letizia si è occupata della pagina Facebook. Sì, mi sono occupata un po' dei social, diciamo. Noi abbiamo una pagina Facebook, appunto, che è Associazione Psicosfere, no? Nella quale è un gruppo Robe da Matti su Facebook, in cui è possibile proprio interagire, è possibile anche fare domande, è possibile. E nella pagina Facebook proprio mettiamo al corrente di tutti i nostri eventi, di tutte le nostre, diciamo, creando un calendario, creando proprio nel dettaglio il mese di ottobre sarà. Ci saranno tutte le informazioni minuto per minuto, ma poi andremo anche oltre nel futuro con altre eventuali cose che faremo. Poi abbiamo anche una pagina Instagram io adoro Instagram, Psicosfere, in cui ci saranno tutte le nostre foto, le nostre i loghi, le locandine, la brochure, eccetera. Una pagina diciamo Twitter, Psicosfera, anche quella è una pagina, un profilo LinkedIn, però che un po' quello che ha meno successo, che si chiama psicosfera associazione. Io mi sono tolto da LinkedIn perché mi ricevevo solo dello spam e delle robe assurde che non avevano alcun senso, e ho deciso di... Però per la maggiore utilizzavo proprio Instagram e Facebook. È molto comodo perché si trova subito anche dal cellulare tutte le informazioni eccetera. Ma su Instagram degli psicologi che cosa postano? Le foto che ci hai fatto stasera. Ah, fantastico. Quindi sì, Clemente. Foto che ci hai fatto a tradimento, perché no, t'abbiamo visto con quel tablet alzato. Magari dopo ne facciamo anche qualcuna dove ci mettiamo un attimo in posa e siamo tutti più bellini. No, ma anche, io mi sono fatto anche, un selfie, sembra uscito anche dalla piscina. Il bellissimo volantino che ha creato il certo, grande. Con questo arancione, che fra l'altro l'arancione è uno dei colori più positivi a livello, tra virgolette, psicologico, perché energetico, vitale. Esatto. Vitale. Sì, sì, sì, devo dire che è un'ottima scelta quella dell'arancione. Adesso un minutinissimo di pausa, ormai in realtà abbiamo finito, ma abbiamo un minuto di Zino e poi ci salutiamo. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Mia dolce Fedra, l'ho sempre pensato. È inutile piangere sul latte macchiato, ma ora che la cosa mi riguarda mi vengono i cognati di vomito ed è difficile trovare la soluzione. Sì, lo so, c'è stato un quiquoquà tra noi, ma mettiamoci una pietra sopra, stendiamo un velo peloso, perché penso che se la situazione dovesse perseverare mi potrebbe venire uno shock profilattico. Mi piacerebbe dirti queste cose a quattro occhi, ma purtroppo non ho il dono dell'obliquità. E lo sai, io sodomizzo tutto. Per questo ora giro con una foto di Pasquini in mano sotto una pioggia battente come un animale allo stato bradipo. Dovrei tornare a casa perché ho una grande mola di lavoro, ma devo affrontare i miei turbamenti, perché non si è mai tranquilli quando si fanno i conti senza l'hostess. Siamo tornati e stiamo questo era il nostro fantastico Zino, che salutiamo. E anzi, Zino, abbiamo finito i tuoi minuti, per cui mi raccomando, hai 13 giorni di tempo per mandarcene dei nuovi. Direi che siamo alla fine della trasmissione e no, ne avevo visto un altro che mi sembrava interessante. Dove è finito? Con questo basso non ancora. Questo è il nostro direttore che ci insulta anche quando non abbiamo finito la trasmissione. Un attimo. Allora, dicevamo i sentimenti e i bisogni dentro le parole che diciamo. Comunicazione empatica non violenta. Questo sei tu. Sì, questo sì. È un lavoro di Marshall Rosenberg, la comunicazione non violenta di Marshall Rosenberg. Comunque, se posso dire, ci sono tantissimi argomenti, ci sono degli argomenti importantissimi per i genitori nella relazione con i figli, che riguardano anche tutte le preoccupazioni dell'uso dei social, dell'uso degli smartphone. Ci sono argomenti che riguardano i genitori che si stanno separando e che hanno la difficoltà a gestire i figli. Ci sono argomenti che riguardano la felicità, come perseguire la propria felicità. Addirittura ci abbiamo anche emozioni e finanza quest'anno, che è un argomento che non avevo mai visto in precedenza. Ci sono, e poi c'è questo tamo deficiente, come amarsi e capirsi spesso non come amarsi e capirsi spesso non fanno rima. Questo è mi piace molto il titolo, poi non so quanto possa però effettivamente sono cose che, scusa, ti ho interrotto brutalmente, no, vai pure avanti. Dicevamo temi che riguardano l'assertività, temi che riguardano la scrittura, la coppia, ci sono vari appuntamenti che riguardano la coppia e le emozioni scomode come l'ansia, la paura, il panico, l'invecchiamento. Io invito proprio ad andare a vedere sul sito, continui a girare lì il coltello nella mia piaga, l'invecchiamento, l'Alzheimer, già non mi ricordo niente. D'altro canto, diventare vecchi vuol dire non essere morti prima, no? No, quindi, certo, esatto, c'è il suo vantaggio. Non so se avete notato, ma non vi chiamo mai per nome, capito? E così ho capito, fantastico, no? E spero davvero di riuscire a venire a sentirne qualcuno dal vivo questa volta, perché sono molto curioso, ma stavolta ce la faccio, perché è in un mese in cui non sono a Torino a insegnare, perché simpaticamente il mio lavoro comincerà un po' più avanti. Bene, e a questo punto ridiamo la parola al nostro simpatico direttore, che come al solito giudica la nostra trasmissione in questo modo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Avete ascoltato Coxo Spaziale. Ringraziamo Maria Letizia Rotolo, Marzia Zunarelli e Licia, non mi ricordo più il tuo cognome. Dove sei? Sono qui, Vicinelli. Vicinelli, infatti mi ricordavo che faceva rima. Ebbene, grazie mille, grazie, ci vediamo. A te. Grazie a te. Alla prossima puntata. Alla prossima. Il 25 settembre ricomincia il palinsesto di Radio Città Fujiko, il numero 42. Come ogni anno, la tua radio preferita cerca di offrirti il meglio di musica, cultura e informazione. Per scoprire tutte le novità e le conferme della stagione 2017-2018, seguici sui social network e sul sito radiocittafujiko.it. Radio Città Fujiko, dalla tua parte della barricata.